Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Secondo me quello è un atto di intimidazione, per me l'intimidazione è inaccettabile, quindi non ho alcun problema, voglio dire, a dire che insomma attività, episodi di questo tipo non mi trovano d'accordo, non ho problemi a condannarlo. Mi consenta però di dire che trovo abbastanza ridicolo l'appello di Matteo Renzi, perché la violenza non è oggettivamente quello che ieri si è visto a Como, è un atto di intimidazione ma non è un atto di violenza. La violenza noi l'abbiamo vista un sacco di volte quando quelli che diciamo sono amici della sinistra e vengono coperti dalla sinistra distruggono intere città. Questo è il parere, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, oggi sulla 7, a proposito di questa polemica politica sull'irruzione di skinheads, di neofascisti, durante un'assemblea pubblica a Como di un'associazione che si occupa di immigrazione. Allora, c'è chi minimizza tra le forze politiche, c'è chi invece dice questo è stato un atto intollerabile di violenza, e c'è il ministro Martina che ha indetto una grande manifestazione contro l'intolleranza per il 9 dicembre a Como. Ecco, le forze politiche si dividono su questo argomento, chi parla appunto di rigurgiti neofascisti, chi dice no, in realtà è un'intimidazione, non è un atto di violenza, anche se da condannare. Ecco, anche su questo potete esprimere le vostre opinioni, poi ne parleremo con un ospite. Poi c'è anche fra i vari temi questa contemporaneità di due casi per i quali la procuratrice generale della Cassazione chiede che siano restituiti i bambini sottratti alle famiglie. Sono due casi completamente diversi. Uno è quello della coppia delle aggressioni dell'acido, chiede la procuratrice generale che siano restituiti ai nonni materni, che sia restituito questo bambino ai nonni materni, mentre vi ricordate anche il caso di quei due genitori considerati troppo anziani del Monferrato a cui fu sottratta la bambina nata nel 2010. Bene, anche in questo caso chiede che ritorni, ma in questo caso ai genitori. Ne parleremo con un esperto di diritto minorile, quindi sono vari temi su cui potete esprimere le vostre opinioni, le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure inviando degli sms o dei whatsapp al 349 238 6666. Quindi vari argomenti da approfondire, ma prima sentiamo che giornata è stata in sintesi. La manovra economica, passa la fiducia al Senato sul maxiemendamento, resta il nodo bonus bebè. Banca Etruria, il PD attacca Banca Italia sul fallimento, la responsabilità è sua, dice il Partito Democratico. L'irruzione degli skinheads a Como, 4 denunciati per violenza privata, polemica politica tra chi minimizza e chi parla di pericolosi rigurgiti di fascismo, e il ministro Martina annuncia una manifestazione nella città lombarda per il 9 dicembre. Berlusconi a Siena, un altro rinvio a giudizio per un filone del processo Rubiter. Bimbi sottratti ai genitori. La procuratrice generale della Cassazione sul caso Levato Böttcher dice che è sbagliato togliere il figlio alla famiglia, stia con i nonni materni, e chiede anche di restituire la bimba sottratta ai genitori che furono considerati troppo anziani. Giro d'Italia, rimossa la dicitura Gerusalemme Ovest, Israele si felicita. Partiamo quindi dalla manovra economica. C'è stato il via libera oggi dell'Aula del Senato alla fiducia sul maxi emendamento alla legge di bilancio, con 149 sì, 93 no e nessun astenuto. Dopo il via libera finale, che seguirà al voto degli emendamenti, alle tabelle e al via libera alla nota di variazione di bilancio, il testo passerà alla Camera, e poi nel corso di Effetto Notte questa sera cercheremo di capire quali sono le novità in questa manovra economica. Intanto sono proseguite le proteste del mondo medico contro i tagli alla sanità. Manovra e pensioni finiscono sotto i riflettori dei sindacati, a cominciare dalla UIL, che oggi a Roma ha riunito i delegati per chiedere al Parlamento di non peggiorare il pacchetto pensioni, ossia l'emendamento del governo che esclude 15 categorie di lavori gravosi dall'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile, proposta condivisa da CISL e UIL. Una breccia aperta nella legge Fornero, una legge iniqua, dice il segretario generale Carmelo Barbagallo. La previdenza va però complessivamente migliorata. La battaglia continua per quanto ci riguarda. Abbiamo cercato di portare a casa un risultato da cui bisogna ripartire con il governo che c'è attualmente o con il nuovo governo che si avrà dopo le elezioni. Sabato sarà la volta della CGIL che manifesterà a Roma, Torino, Bari, Palermo e Cagliari per chiedere di cambiare il sistema previdenziale e bloccare l'innalzamento illimitato dei requisiti per andare in pensione. Il sindacato guidato da Susanna Camusso non ha condiviso la proposta del governo inserita nella manovra perché non tiene conto di giovani e donne e non ha rispettato gli impegni sul ritocco complessivo della legge Fornero. Critiche sulla manovra arrivano anche da medici e veterinari pubblici che oggi a Roma hanno manifestato contro i tagli alla sanità e proclamato uno sciopero per il 12 dicembre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Ora parliamo di lavoro. Fermo il tasso di disoccupazione ad ottobre all'11,1% secondo l'Istat, ma negli ultimi 12 mesi il numero di occupati è cresciuto sensibilmente. Buone notizie sul fronte disoccupazione. Il tasso a ottobre è rimasto stabile rispetto a settembre all'11,1%. Lo rileva l'Istat sottolineando che rispetto a ottobre 2016 il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,6 punti percentuali. 246.000 gli occupati in più sull'anno, la più bassa disoccupazione dal 2012. Cala al 34,7% inoltre ad ottobre il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni, con una diminuzione di 0,7 punti rispetto a settembre e un calo di 2,5 punti rispetto a ottobre 2016. Si conferma la tendenza positiva nel medio-lungo periodo, ha commentato il ministro del lavoro Giuliano Poletti. In Europa la disoccupazione è scesa all'8,8% sull'anno, quella giovanile è al 18,6%. Il tasso di disoccupazione italiano è il terzo più alto nell'Unione Europea dopo Grecia e Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la crisi delle banche che torna in primo piano con le dichiarazioni del presidente del Partito Democratico Orfini che sul fallimento di Monte dei Paschi attacca la Banca d'Italia. Il PD torna ad attaccare Banca Italia, il caso è sempre quello di Etruria. Per il presidente Dem Matteo Orfini si sta sgretolando il castello di sciocchezze e sta emergendo la vera responsabilità del fallimento che è stata di via nazionale, non solo in termini di vigilanza, ma anche per un suo ruolo financo eccessivo. Una sferzata che arriva al termine dell'audizione del procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi sul caso dell'Istituto Toscano presso la commissione d'inchiesta. Rossi denuncia la spinta esercitata da Banca Italia nel 2013 su Etruria per scegliere Popolare di Vicenza come partner di elevato standing in vista di una possibile fusione, definendo questa scelta singolare perché le due banche erano in condizioni simili. Ma Banca Italia smentisce, mai sostenuto il matrimonio tra Etruria e Popolare di Vicenza. Dopo le irregolarità emerse, dicono da Palazzo Koch, si è chiesto di adottare misure correttive e l'aggregazione con un partner, la cui scelta però è stata rimessa alla valutazione autonoma degli organi aziendali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E altro tema di polemica politica, come vi dicevo all'inizio, l'irruzione degli skinheads a Como in un'assemblea pubblica. Da un lato c'è chi chiede una condanna inequivocabile dell'episodio, dall'altro c'è chi liquida come una goliardata. In mezzo ci sono questi 13 neofascisti del gruppo Veneto Fronte Skinheads che martedì scorso a Como hanno fatto irruzione nella sede di Como Senza Frontiere, un'associazione che si occupa di migranti, e così hanno deliberatamente interrotto la riunione in corso per leggere un loro proclama contro l'immigrazionismo. Come hanno detto, 4 denunciati al momento per violenza privata, e il ministro Martina che ha annunciato il 9 dicembre una grande manifestazione a Como contro l'intolleranza. Poi, come dicevo, torneremo anche su questo tema. Berlusconi a Siena, un altro rinvio a giudizio per un filone del processo Rubiter. L'ex presidente del Consiglio rinviato è accusato di corruzione in atti giudiziari, avrebbe pagato un test e un testimone dei festini di Arcore. Questo è uno stralcio del filone principale che si aprirà a Milano. E torniamo a parlare di due casi di cronaca di cui a lungo si è discusso, quello del figlio della coppia dell'acido e le aggressioni con l'acido a Milano e quello dei genitori considerati troppo anziani a cui era stata tolta la figlia. La vicenda arriva in Cassazione, le ha affrontate uno stesso procuratore generale e in realtà una procuratrice che ha sostenuto una linea comune sui due casi. La famiglia prima di tutto, i vincoli di sangue prima di ogni possibile obiezione. È per questo che il figlio della coppia dell'acido non deve essere dato in adozione ed è per questo che anche se anziani, i genitori biologici nel Monferrato devono riavere la loro figlia. Un'unica indicazione arriva da due distinte richieste della Procura Generale della Cassazione. Nella vicenda riguardante l'adozione del figlio di Martina Levato e Alexander Bocher, nato quando i genitori erano già in carcere e ora sistemato in una comunità della città di Milano, il PG ha chiesto di affidare il bimbo ai nonni materni e non considerarlo adottabile, come invece stabilito dal Tribunale Meneghino. I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi, perché ogni bimbo, scandisce il PG Francesca Ceriani, ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato. La stessa linea che poi lo stesso PG della Cassazione tiene poco dopo in un altro caso, il ricorso della coppia piemontese a cui nel 2010 era stata tolta la figlia perché considerati inadatti per l'età e per un'accusa di abbandono poi caduta. La bimba deve essere restituita ai coniugi di Ambrosis, 57 anni lei, 69 lui, è la richiesta del PG, convinta che non sia stata legale la genesi che ha portato all'adozione. Ora bisognerà aspettare le sentenze per capire se anche per i giudici i vincoli di sangue vengano prima di tutto il resto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora spostiamoci all'estero, scintille tra Stati Uniti e Gran Bretagna per i tweet di Trump, del presidente americano, con i video anti-islamici di un gruppo xenofobo inglese, una scelta che non è piaciuta alla prima ministra britannica Theresa May. Britain First semina odio e ritwittarne i video è stata la cosa sbagliata da fare, ribatte di nuovo la premier britannica May a Donald Trump, che alle critiche di Londra aveva risposto di badare piuttosto al terrorismo islamico in Gran Bretagna. Collaboriamo con gli Stati Uniti su molti fronti, ha insistito la premier, ma non abbiamo paura di parlare quando riteniamo che Washington sbagli. Alla Camera dei Comuni le opposizioni hanno chiesto a gran voce la cancellazione dell'invito a Trump per una visita a Londra, ma, dice la May, nonostante tutto, l'invito è stato presentato e accettato. Intanto, secondo la stampa americana, l'era di Rex Tillerson alla guida del Dipartimento di Stato americano starebbe per concludersi, causa profonde divergenze col presidente sulla strategia della politica estera americana. Al suo posto, si dice, arriverà il capo della CIA, Mike Pompeo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Adesso una notizia che riguarda il gruppo Sole 24 Ore. Banca IMI e Banca Akros, le banche del consorzio di garanzia, hanno sottoscritto l'8,14% delle azioni oggetto dell'aumento di capitale del Sole 24 Ore. Pertanto l'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per 49,98 milioni. Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto un'adesione così alta all'aumento di capitale, commenta l'amministratore delegato del gruppo Franco Moscetti. La fiducia che ci hanno dato gli investitori, anche sulla base dell'interesse riscontrato sul piano di sviluppo del gruppo, conferma la forza e l'autorevolezza del brand Sole 24 Ore. Il maltempo che sta arrivando, neve, anzi in arrivo sulle regioni nord-occidentali, dal Piemonte alla Toscana, anche in pianura, con una perturbazione proveniente dall'Europa centrale che raggiungerà domani l'Italia, determinando anche un deciso abbassamento delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede, a partire da domani mattina, nevicate diffuse su Piemonte ed Emilia-Romagna centro-occidentale e in estensione nel corso della mattinata Liguria-Lombardia centro-occidentale, con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti. Una notizia di cinema per i nostalgici, anche per chi non l'avesse mai visto, è un cult. Nel 40° anniversario La febbre del sabato sera torna nelle sale italiane, in 100 sale italiane, in versione restaurata con la supervisione del regista John Badham, da lunedì 4 dicembre e per tutto il mese. Il film musicale che nel 1977 creò il mito di John Travolta nei panni di Tony Manero, giovane di periferia che tenta il riscatto nel virtuosismo del ballo da discoteca, è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto Il Cinema Ritrovato. Per chiudere lo sport, dopo le polemiche di Israele sulla partenza del Giro d'Italia 2018 a Gerusalemme Ovest, l'organizzazione della kermesse ha fatto retromarcia. Le prime tre tappe del Giro d'Italia si correranno in Israele, ma una parola di troppo aveva rischiato di far saltare tutto. Sede designata per la partenza il 4 maggio 2018, avevano scritto gli organizzatori sul sito della manifestazione, sarà West Jerusalem, Gerusalemme Est. Immediata la reazione del governo israeliano, che attraverso un comunicato ufficiale aveva minacciato di non partecipare alla Corsa Rosa, facendo venir meno anche i relativi finanziamenti. Non vi sono Est e Ovest, Gerusalemme è la capitale di Israele, città unita, avevano scritto i ministri del turismo e dello sport. Quelle pubblicazioni sono un'infrazione delle intese con il governo israeliano, mentre i giornali filogovernativi sostenevano che alla base ci potessero essere pressioni di elementi filo-palestinesi per sottolineare che Gerusalemme Est non fa parte di Israele. Ma l'incidente diplomatico è rientrato in poco tempo. Le proteste sono state prontamente recepite da RCS Sport, che ha provveduto all'immediata rimozione della dicitura, precisando come fosse priva di alcuna valenza politica, solo una notazione tecnico-ciclistica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E con questo il riassunto è completato della giornata delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, quindi prepariamoci adesso ad affrontare alcuni argomenti, ad approfondirli con gli ospiti tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando. Intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Dice Dino: perché i skinheads con l'irruzione sono stati considerati dei violenti, mentre i muslim che occupano i nostri marciapiedi e considerano il crocifisso un cadavere che dobbiamo togliere dalle scuole, questo va bene? E poi qualcuno che dice invece sul caso, sui due casi di cui parleremo, di bambini sottratti e che la Cassazione chiede di restituire, poveri bambini, dice Carlo, ridotti a cambiare famiglie senza considerare i loro traumi. Poi capiremo appunto se queste scelte possono essere nel loro interesse o meno. Continuate con i vostri messaggi, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi di notizie, di fatti, di approfondimenti con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi tutte le sere, ricordatevi, da lunedì al venerdì, se volete essere aggiornati costantemente su tutto quello che è successo durante appunto la giornata, a fine giornata, sulla tempestizione di parole, in modo che un giorno non potrete dire io non la sapevo, volete un sunto di quello che è stato più importante durante il giorno, per forza dovete seguire Effetto Notte puntualmente alle 21. Per chi non avesse acceso puntualmente, lo sapete che poi ricordo i titoli principali. Intanto i vostri messaggi che stanno arrivando sia al numero per messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Molti messaggi su questa polemica politica sull'irruzione degli skinheads in questa assemblea pubblica a Como. Doriano scrive: i fascisti banalizzano, lo sappiamo, la nostra parrocchia di Vicofaro, che non so se sia, i fascisti di Forza Nuova minacciarono di venire a sindacalizzare se Don Massimo Biancalani era o no coerente col messaggio evangelico. Mai successo questa arroganza nemmeno al tempo del fascismo, dice Doriano. Poi Christopher dice: la violenza la fanno quelle associazioni che aiutano e favoriscono il traffico di umani per lucro. Questi hanno solo letto un comunicato, non c'è stata alcuna violenza, secondo Christopher. Marche Claudio dice: il problema è la classe politica italiana, ma continua a dire che non ce la meritiamo, che noi ce la meritiamo. Mentre Laura, a proposito di questi skinheads neofascisti, dice: potrebbe trattarsi di un problema di identità maschile che alcuni maschi smarriti sperano di recuperare abbracciando un'ideologia che li esalta. Serve un nuovo modello maschile per orientare i giovani uomini. Non male anche questo commento, ma tra poco ne parleremo più nel complesso. Adesso vi ricordo, per i ritardatari, i fatti principali. La manovra economica: passa la fiducia al Senato sul maxiemendamento, resta il nodo bonus bebè. Banca Etruria, il PD attacca Banca Italia sul fallimento, la responsabilità è sua. L'irruzione degli skinheads a Como, ne parleremo tra pochissimo. Berlusconi, a Siena, un altro rinvio a giudizio per l'ex Presidente del Consiglio per un filone del processo Rubiter. Bimbi sottratti ai genitori, la procuratrice generale della Cassazione sul caso Levato Böcher dice che è sbagliato togliere il figlio alla famiglia, stia coi nonni materni, e chiede anche di restituire la bimba sottratta ai genitori che furono considerati troppo anziani per averla. Giro d'Italia: rimossa la dicitura Gerusalemme Ovest, Israele si felicita. Allora, la politica italiana è particolarmente animata nelle ultime ore da due temi, no? Due polemiche principali. Una relativa alla vicenda di cronaca e anche di politica di cui abbiamo già parlato leggendo appunto i vostri messaggi. Cos'è successo? Che un gruppuscolo di giovani, poco meno di una quindicina insomma, con testa rasata e bomber, appartenenti al Veneto Fronte Skinheads, hanno fatto irruzione l'altra sera a Como, nella sede dell'associazione Como Senza Frontiere, mentre era in corso una loro riunione, e hanno letto un proclama con delle accuse nei confronti della rete stessa, dell'associazione stessa, contro l'immigrazione. L'altra polemica invece riguarda in realtà è un prosieguo di un'altra della polemica, è sempre quella su Banca Italia, no? Con il PD che attacca e dice: su Banca Etruria è emersa la vera responsabilità, è di Banca Italia, perché oggi è stato sentito il procuratore di Arezzo in sede di commissione d'inchiesta parlamentare sulla crisi delle banche. Allora, ne parliamo ovviamente con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Cosa vogliamo iniziare? Dalla polemica sugli skinheads? Va bene, allora, sei tu la padrona di casa. Cara, io farei sentire, ma l'ospite è più importante di tutti, allora farei sentire questa irruzione, lettura di proclama, così ci rendiamo un po' conto della situazione. Vediamo. Sentiamo. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo sull'altare di un turbocapitalismo alienante. Tutto questo amplificato ad arte da un megafono propagandistico di pseudoclericali irretiti dalla retorica mondialista. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. Grazie. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. E la nostra città, grazie. Noi vi abbiamo rispettato, aspettiamo la stessa cosa, grazie. Nessun rispetto per voi. Nessun rispetto per voi. Allora, intanto dal punto di vista della cronaca, dico che gli ultimi aggiornamenti che sono stati denunciati per violenza privata dalla questura di Como, 4 componenti del gruppo dei 13 skinheads, che appunto martedì sera hanno fatto questa irruzione leggendo il proclama che avete sentito. Si tratta di giovani già noti alla Digos in quanto legati agli ambienti degli ultra di Como. Altri 4 giovani sono stati identificati grazie anche alla collaborazione delle questure di Mantova e Brescia e subiranno la stessa sorte, cioè saranno denunciati per violenza privata, e sono 4 giovani che gravitano negli ambienti neofascisti. Dal punto di vista politico, Barbara Fiammeri, allora abbiamo sentito all'inizio, la facciamo risentire, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che cosa ha detto, perché Renzi aveva detto è una cosa intollerabile, ci sono state diciamo delle critiche troppo timide nei confronti di questo atto violento. Sentiamo Giorgia Meloni. Secondo me quello è un atto di intimidazione, per me l'intimidazione è inaccettabile, quindi non ho alcun problema, voglio dire, a dire che insomma attività, episodi di questo tipo non mi trovano d'accordo, non ho problemi a condannarlo. Mi consenta però di dire che trovo abbastanza ridicolo l'appello di Matteo Renzi, perché la violenza non è oggettivamente quello che ieri si è visto a Como, è un atto di intimidazione ma non è un atto di violenza. La violenza noi l'abbiamo vista un sacco di volte quando quelli che diciamo sono amici della sinistra e vengono coperti dalla sinistra distruggono intere città, e nessuno ha mai fatto gli appelli per la condanna delle violenze dei centri sociali. Quello si può fare. Barbara, poi Laura Boldrini, Renzi ha detto su questi temi non ci devono essere divisioni, la condanna è stata troppo timida. Laura Boldrini, presidente della Camera, ha detto serve una mobilitazione civile. Salvini, leader della Lega, ha detto il problema dell'Italia è Renzi, non il fascismo che tanto non può tornare. Martina, intanto, il ministro Martina, anche vice segretario del PD, ha annunciato per il 9 dicembre una grande manifestazione a Como contro l'intolleranza. Tu come lo leggi questo episodio e quindi anche che non si tratti di un'azione violenta è vero, però devo dire anche una cosa, non si è trattato di un'azione violenta perché dentro questa sala, insomma, in cui questi energumeni sono entrati, hanno trovato delle persone anziane, delle ragazze. Cioè, se avessero trovato dei ragazzi ventenni... Pari loro, dici, come costituzione fisica? Sì, finiva male probabilmente. Allora, cioè, il fatto che, come dire, non ci siano state delle azioni violente nel senso letterale del termine, non rende meno grave questo gesto. E devo dire che è molto forte il contrasto, vedendo il video, tra queste persone che è come se li ignorassero, cioè loro continuano, no? Leggono anche loro il foglietto che gli avevano dato, questa specie di volantino che gli avevano dato in mano, non sono assolutamente apparentemente spaventate, è più impacciato quello che legge, questo immigrazionismo che ha coniato, nuovo termine coniato. E poi quando salutano, a me colpisce tantissimo, perché ho avuto la sensazione, forse sbaglio, che almeno alcuni di loro, non quello che leggeva, che probabilmente era il capo di questa pattuglia, fossero quasi a disagio, perché buonasera, va bene, buona serata, cioè, era una situazione veramente paradossale. Certamente... Come dire, sono delle azioni, sono eventi che comunque sono inquietanti, perché io credo che la politica, quella, diciamo, la politica che noi vediamo tutti i giorni in televisione, ha una responsabilità nel legittimare poi queste azioni. Mi spiego meglio. qui non sto dicendo la Meloni piuttosto che Salvini, nel senso di appartenenza, quindi a uno schieramento, in questo caso sto parlando del centrodestra, sto dicendo proprio del come i politici si confrontano, soprattutto su in televisione, cioè laddove il messaggio passa in modo forte, e in cui la violenza espressiva emerge nei contrasti, nel dire delle cose anche molto pesanti, anche personali spesso. E quindi secondo me legittima poi azioni da parte di chi ha meno strumenti culturali, vive situazioni di disagio, non voglio fare la sociologa, però io credo che chi è in alto ha una responsabilità maggiore di chi è in basso, insomma. Barbara, ti leggo qualche altro messaggio dei tanti, no? Allora, per esempio c'è Antonio che dice: quattro gatti che si danno aria da leoni, comunque pure queste associazioni a tutela degli stranieri hanno rotto prima i problemi degli italiani, poi degli altri che arrivano solo per chiedere e pretendere. Vito scrive: gente meschina che si sente forte solo in gruppo, squadristi, andrebbero messi a pulire le strade con la palla al piede. Poi invece Luca da Cagliari dice: ma quando Salvini o altri presentano un libro per fare un discorso, arrivano centri sociali, antagonisti, eccetera, scoppia la guerra civile, Sassi, uova, eccetera, ma sono di sinistra, loro possono, che buffoni, dice Luca. Cosa risponderesti? Ma no, cioè Luca ha ragione, nel senso che ovviamente la condanna va casi, ecco, sì. Però faccio notare a Luca che è un conto se qualcuno viene a casa sua, cioè di un privato cittadino, e un conto è quando una manifestazione di dissenso, anche violenta e quindi insomma certamente censurabile, avviene in una situazione dove c'è un leader politico, che sia Salvini, che sia Renzi o che sia Grillo, con quindi un consenso e anche un dissenso, una anche una protezione da parte delle forze dell'ordine. Cioè, se io sono dentro casa mia e sono un privato cittadino, in questo caso l'associazione, cioè non è che ti immagini che ti arrivino una squadra di energumeni dentro casa, no? Cioè, uno non la mette in conto. Un politico solitamente, quando va a fare un comizio, va in una manifestazione pubblica, mette anche in conto il dissenso. Quindi io starei molto attenta ecco, anche qui invito anche i nostri ascoltatori a equiparare delle situazioni che sono molto diverse, perché qui siamo in presenza di una violazione, quantomeno di una violazione, no? Di una proprietà. Infatti sono indagati per violenza privata. Certo, c'è comunque una violazione. E ripeto, siamo in presenza di, erano persone anziane, diverse donne, mi sembra, e quindi cioè la minaccia c'è, qui torniamo sempre al solito discorso, insomma, ma la minaccia non è che si deve concretizzare per forza che qualcuno ti prenda a schiaffi, e ripeto, se non ci fossero state quelle signore, ma ci fossero stati dei ragazzi come loro, probabilmente non finiva così, perché magari gli avrebbero impedito l'accesso e quindi forse ci sarebbe stato qualche cosa di più. Quindi insomma, io l'episodio lo leggo per quello che è. E penso che, ripeto, la responsabilità maggiore se la dovrebbero assumere le forze politiche, non tanto e non solo nel condannare questi episodi che stanno avvenendo sempre con maggiore frequenza, ma quanto nel tipo di messaggio che inviano quando si propongono davanti ai media. Questo secondo me è la cosa essenziale, perché se non si ha rispetto tra di noi, cioè tra i politici, se non hanno rispetto tra di loro, è come sulla stampa, scusami Roberta, ma insomma, cioè non, lo spada che dà la testata, no? Cioè il delinquente che Roberto dà la testata, sì, al, sì, giornalista. Al giornalista. Però quante volte noi abbiamo sentito attacchi alla stampa, la cosa delle forche, la foto che ti metto sul sito il giornalista, come dire, è lui da punire. Allora, poi questo si fomenta, dici, si fomenta, sì, e quindi sì, poi è e chiaro, allora io che dico, dici, che chi ha più responsabilità ci deve pensare quando apre la bocca. Giustamente. Barbara, invece, sulla questione delle banche e della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, oggi si è riaccesa questa scintilla, no, sulla questione di Banca Etruria, perché il procuratore di Arezzo è andato appunto a parlare in questa commissione, Roberto Rossi, alla commissione d'inchiesta, e ha detto praticamente che Banca Etruria in qualche modo che la Banca d'Italia non solo più che non ha vigilato, ha avuto un eccesso, diciamo, di protagonismo nella storia di Banca Etruria, che pensava a una possibile fusione, un matrimonio con Banca di Vicenza. Sì, cioè sostanzialmente di Vicenza, Rossi sì. Ha detto che la Banca d'Italia ha incentivato l'aggregazione tra la Banca Etruria e la Popolare di Vicenza. E quindi questa azione di via nazionale ha una responsabilità per il procuratore, insomma. Banca Italia però da parte sua invece replica che aveva chiesto alla Banca Etruria di adottare tutte le misure che servivano per cercare una fusione, l'acquisizione di un partner affidabile, insomma. Quindi poi anche qui poi vedremo quale sarà la verità, e probabilmente bisognerà aspettare la verità giudiziaria, almeno quella, insomma, la verità giudiziaria. Intanto c'è il PD che accusa Banca Italia, dice ecco, è lei la vera responsabile del fallimento di Banca Etruria. A questo punto direi, Barbara, che possiamo lasciarci, vediamo come proseguono queste polemiche, ancora tanti messaggi rispetto soprattutto alla questione degli skinheads, poi magari ci sarà il tempo di leggere. Harry vuol fare, diciamo così, un po' di ironia, chiudiamo con leggerezza, dice Roby, come direbbero Mogol e Lucio Battisti, capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi irruzioni. Va bene, un sorriso, però mi raccomando, prendiamole seriamente certe cose. Come dice il ministro Orlando, dice sbagliato minimizzare, perché sono parole e gesti che un tempo erano stati messi al bando, adesso rischiano di essere sdoganati, e quindi no, alla portata di tutti, come fossero cose normali. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buona serata. Ciao Barbara, buona serata a te. Ci prendiamo una pausa, poi ritorniamo insieme con gli altri argomenti. 349-238-6666 per messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete dove siete, in un posto giusto, al momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato molto delle polemiche che nelle ultime ore stanno animando la politica italiana, quindi quella sulle banche, con la commissione parlamentare d'inchiesta, e di nuovo le accuse nei confronti di Banca Italia, e poi questa dell'episodio dell'irruzione di una quindicina di skinheads in un'assemblea in un centro di un'associazione che è attiva con i migranti, che hanno letto questo proclama, insomma, hanno fatto un'irruzione così, e sono accusati adesso di violenza privata, perché appunto sono entrati senza permesso e di punto in bianco hanno bloccato questa assemblea, hanno letto un proclama contro l'immigrazionismo, come hanno detto. Molti vostri messaggi su questo argomento, qualcuno che li difende, qualcuno che minimizza, qualcuno che dice invece sono dei segnali pericolosi. Avete sentito appunto le forze politiche come sono anche divise su questo tema. Ora ci sposteremo invece su un'altra questione, diciamo, economico-politica, che è la manovra economica, la legge di bilancio, per capire quali sono le ultime novità. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666. Ci sono ancora messaggi, per esempio dice Tani da Massa, la democrazia deve ammettere anche l'antitesi di se stessa, comunismo e fascismo. No, se è democrazia, insomma, è bene che non ci siano né comunismo né anche fascismo, no? Nel senso appunto comunismo staliniano del termine. Ora vi ricordo quali sono i fatti principali e poi passiamo al prossimo tema. Della manovra economica parleremo tra pochissimo, è passata intanto la fiducia al Senato sul maxiemendamento, poi Banca Etruria, il PD che attacca Banca Italia dicendo sul fallimento la responsabilità è sua, l'irruzione degli skinheads a Como, ne abbiamo appena parlato, intanto per la cronaca 4 di loro sono denunciati per violenza privata, adesso si stanno cercando di identificare anche gli altri, con il ministro Martina che annuncia una manifestazione nella città lombarda, quindi a Como, per il prossimo 9 dicembre. Per Berlusconi e altri guai giudiziari, a Siena un altro rinvio a giudizio per un filone del processo Rubiter, bimbi sottratti ai genitori, ne parleremo dopo di questi due casi particolari con un giurista. E poi Giro d'Italia, rimossa la dicitura Gerusalemme Ovest, Israele si felicita. Ora con il nostro Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Jean-Marie. Ciao. Parliamo di manovra economica. C'è stata il via libera all'Aula del Senato, dicevo, alla fiducia sul maxi emendamento con 149 sì, 93 no e nessun astenuto. Il testo adesso passerà alla Camera, dove sono attesi ritocchi anche sui capitoli principali, web tax, bonus bebè, pensioni. Ma ci dici in modo chiaro, Jean-Marie, quali sono i punti principali di questa manovra economica? La manovra, come al solito, è particolarmente complicata. Certo. Quest'anno lo è ancora di più perché sconta anche il percorso accidentato della vigilia elettorale. In tutti i casi, diciamo che i grandi capitoli sono il tentativo di favorire, prorogando gli incentivi, gli investimenti in beni strumentali innovativi, che sono stati un grande successo della manovra dell'anno passato, il tentativo di rimediare allargando l'ape sociale alle proteste di chi ritiene che l'età pensionabile sia troppo avanzata e direi l'altra cosa, la web tax. Perché è importante la web tax? Perché pone l'Italia all'avanguardia nel tentativo di tassare i colossi del web, Amazon, Google, Facebook e tutti questi altri soggetti che sono accusati, non a torto, di pagare troppe poche imposte. Jean-Marie, sentiamo che cosa ha detto il vice ministro dell'economia Morando. Con un'aggiunta molto significativa di risorse rivenienti dal cosiddetto dall'articolo 92, il fondo per esigenze indifferibili, per un intervento a favore della famiglia, in particolare della natalità. Un intervento che è già finanziariamente molto significativo e che, se dovrà essere aggiustata alla Camera, lo sarà, perché il Governo condivide la scelta, in particolare avanzata dal gruppo di AP, di sostenere questa prospettiva con concrete, puntuali riforme da introdurre nel corso di questa legge di bilancio. Quindi, Jean-Marie Delbo, rimane ancora un po' questo nodo bonus bebè, no? Non è ancora, sì. C'è un po' di polemica tra Alternativa Popolare e PD, due partiti della maggioranza di governo. Sì, il bonus bebè è diventato un po' l'ultimo, o forse il penultimo, perché poi bisogna vedere cosa accadrà alla Camera, dei temi contesi di questa manovra. Lo è diventato perché AP ha fatto della permanenza, nella misura più forte possibile, del bonus bebè una battaglia di bandiera. C'è da dire che il bonus bebè è un tentativo, probabilmente, anzi sicuramente non sufficiente, di rispondere ai dati preoccupanti dell'Istat sul calo delle nascite in un paese che purtroppo sembra non essere un paese per giovani. Jean-Marie, comunque diciamo anche la verità, no? Che qui, al di là degli schieramenti politici dei vari governi, si è sempre parlato tanto di famiglie, della tutela della famiglia. Poi sembra che gli unici a contrastare la famiglia siano gli omosessuali, che non c'entra niente perché fanno la loro vita, no? E invece le politiche per la famiglia che tutti dicono di voler sostenere, sappiamo che in Francia succedono delle cose magnifiche rispetto che da noi, no? Mi pare che diano 1.000 euro ancora quando la donna è incinta, ancora prima che abbia partorito, per il nascituro, poi un sacco di agevolazioni per le tate, per l'aiuto in casa alle famiglie. Ecco, diciamo che questi bonus in Italia, nessun governo recentemente mi pare abbia fatto grandi cose, no? Per sostenere la natalità anche. Il problema forse è questo: si sconta una vecchissima retaggio, che è quello che per tanti anni si è detto non sono necessarie politiche per la natalità, perché comunque la natalità regge. Poi le politiche per la natalità richiamavano quelle, diciamo, del fascismo probabilmente, no? Che aveva fatto davano di dei questo, premi alle fattrici, esatto, che facevano parecchi figli, un punto di forza. In realtà il problema è che il paese sta invecchiando e, come dicevo prima, non è un paese per giovani, perché i figli si fanno in genere da giovani, quindi il momento in cui c'è bisogno di un aiuto è quello. Come dicevi giustamente, altri paesi hanno delle politiche più lungimiranti che producono anche dei risultati. La Francia, tanto per dire, ha anche il sistema di tassazione basato sul quoziente familiare, che è un sistema di tassazione che da anni viene discusso anche in Italia, ma che diciamo, giusto o sbagliato che sia, non viene però raggiunto. Il problema è che le politiche per la famiglia hanno dei costi molto elevati e forse si è preferito spostare, ecco, l'attenzione su altre modalità di sostegno alla famiglia, penso diciamo a politiche pensionistiche di vario tipo, politiche assistenziali, che però non incidono direttamente sul problema natalità di cui si parlava prima. Michi scrive, ricordo il numero 349-238-6666 per messaggi WhatsApp oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, scrive Michi: prima bisogna dare la possibilità ai giovani di farsi una famiglia, il resto viene da sé. Certo, poi l'occupazione, insomma, è tutto un cane che si morde la coda, una questione veramente complessa. Grazie Jean-Marie Delboy, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Per chi ancora non avesse sentite, ve le ricordo velocemente, abbiamo appena parlato di manovra economica perché al Senato è passata la fiducia sul maxi emendamento, resta ancora, dicevamo, questo nodo del bonus bebè. Poi per quanto riguarda le polemiche politiche su Banca Etruria e Banca Italia, il PD attacca Banca Italia, sul fallimento di Banca Etruria dice la responsabilità è sua. L'irruzione degli skinheads a Como, l'altro motivo di polemica tra le forze politiche, c'è Martina che annuncia una manifestazione nella città lombarda a Como per il 9 dicembre, c'è chi minimizza e chi dice che invece sono rigurgiti pericolosi di fascismo, e poi intanto per la cronaca sono quattro, sono intanto stati denunciati per violenza privata. Per quanto riguarda i guai giudiziari di Berlusconi, a Siena un altro rinvio a giudizio per un filone del processo Rubiter, e poi bimbi sottratti ai genitori, ne parleremo adesso. Parliamo in verità di due casi che riguardano dei bambini sottratti ai genitori, ma per motivi completamente diversi, sono due storie completamente differenti, nei quali però in entrambi, pur in modo appunto differente, una procuratrice generale della Cassazione chiede che tornino questi bambini alle loro famiglie. Un caso è quello della coppia del Monferrato, vi ricordate, alla quale fu tolta la figlioletta nata nel 2010 perché Gabriella Carsano, la madre oggi di 57 anni, e il marito Luigi D'Ambrosi di 69 anni erano stati considerati troppo anziani, troppo vecchi per questa bambina, e poi accusati anche ingiustamente di averla abbandonata in macchina per 4 minuti. Quella è stata veramente una cosa ingiusta e sciocca. La procuratrice generale della Cassazione Francesca Ceriani ha chiesto che sia loro restituita questa bambina, sostenendo che il fatto che la bimba sia stata adottata non può ottenere tutela perché si tratta di una situazione la cui genesi non è legale. Insomma, dice, non può andare avanti così questa situazione perché non è stato giusto quella decisione, quell'atto. L'altro caso è quello della coppia degli aggressori con l'acido, vi ricordate, Martina Levato e Alexander Böcher, che sono in carcere per i crimini commessi. Mentre erano in carcere, Martina Levato ha partorito un bambino, e la medesima procuratrice della Cassazione dice che il bambino sottratto loro deve essere affidato ai nonni materni, perché, spiega, i figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi, perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato. Anche se Alexander Böcher e Martina Levato, dice, sono responsabili di crimini raccapriccianti, dare in adozione il loro figlio equivarrebbe a una non consentita operazione di genetica familiare, come se il piccolo fosse nato con una macchia. I nonni materni, dice, sono idonei a crescere. Allora vorrei chiedere un parere su queste due storie all'avvocato Daniele Bocciolini, che esperto di diritto penale minorile e scienze forensi, è specializzato tra l'altro in violenza di genere. Avvocato Bocciolini, buonasera. Buonasera, grazie. Quindi per il momento queste sono due richieste, non sono delle sentenze, però fanno pensare, no? Quindi sono fatte secondo lei nell'interesse del minore? Da dove derivano? Ha sentito un po' le spiegazioni che dà la procuratrice generale della Cassazione? Ma come diceva giustamente, sono due casi completamente diversi. Le motivazioni addotte dal procuratore generale, dalla dottoressa Ceriani, sono sostanzialmente simili invece. Dicono è stata mal applicata la legge sulle adozioni. La legge sull'adozione, effettivamente, una legge che andrebbe rifatta da capo a fondo, parla chiaro e dice: è adottabile il minore che si trova in uno stato di abbandono. Quindi lo stato d'abbandono è la mancanza di assistenza familiare e affettiva. ciò che non dice la legge sulle adozioni, ma ciò che invece dice poi la Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, quella del 20 novembre dell'89, quindi da cui poi prende spunto la celebrazione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, quella del 20 novembre, è un principio, che è il principio che ricordava giustamente prima, dell'interesse superiore del minore, che è un principio che spesso rimane sulle carte, rimane scritto appunto sui codici, poi è mutuato nei vari principi fondatori, ispiratori anche di tutte le varie convenzioni europee sul punto in tema di fanciullo e diritti dell'infanzia. La domanda che ci dobbiamo porre nel momento in cui si adotta un procedimento e un provvedimento nei confronti di un minore è sempre: è opportuno questo provvedimento per l'interesse superiore del minore? È sempre questa la domanda. Quando io sento il diritto dei nonni, il diritto del padre, nulla di tutto ciò deve essere, diciamo, l'ispirazione e l'obiettivo. L'obiettivo primario è il bene del piccolo, è il bene del minore. Fa bene al minore crescere, e parlo del caso di Bircher e della Levato, quindi la coppia dell'acido, nello stesso nucleo familiare d'origine? È vero, il punto che dice il procuratore generale è vero. L'articolo 1 della legge sulle adozioni dice: il diritto del minore a crescere e a svilupparsi nell'ambito della famiglia d'origine. L'adozione nel nostro ordinamento, ed è giusto che sia così, è un extrema ratio, è l'ultima delle ipotesi, appunto quando il minore si trova in uno stato di abbandono, è privo della, diciamo, capacità di essere assistito dal punto di vista morale e materiale. In questo caso il minore è stato dichiarato adottabile, addirittura si dice che è stata una fase preadottiva, quindi già c'è una famiglia che appunto l'avrebbe in qualche modo avuto già in cura. Il minore è stato tolto alla mamma, parlo di Martina Levato, subito, cioè tanto che si era detto che questa gravidanza fosse in qualche modo subordinata a un piano, a un programma criminoso che avevano i due. Si è parlato di coppia diabolica, di coppia dell'acido, hanno commesso dei crimini terribili. La mamma è stata ritenuta ovviamente incapace, anche perché poi ci sarà conseguentemente a questi provvedimenti la decadenza della potestà genitoriale. I nonni materni invece hanno avanzato richiesta di affidamento. In un primo momento appunto è stata rigettata, è stata dichiarata l'adottabilità, quindi aperta una procedura, è stato fatto poi successivamente ricorso per Cassazione. Faccio presente che sono già passati 2 anni, quasi 3, dalla nascita del piccolo. Piccolo che è stato affidato ai servizi sociali presso il Comune di Milano e già in fase preadottiva a una famiglia. Il punto è proprio questo. Ora è opportuno che venga a distanza di così tanti anni, il bambino appena nasce, insomma, inizia subito l'imprinting del suo sviluppo, è opportuno darlo adesso ai nonni. I nonni hanno un'età appunto tra i 50, 56, 60 anni. Quanta possibilità avranno effettivamente di crescere questo minore? Non è opportuno forse toglierlo da quel nucleo originale familiare, che in qualche modo il procuratore parla di una macchia? Purtroppo questo bambino è nato in una famiglia che non è proprio propriamente fortunata, due genitori che insomma sono stati ritenuti diabolici, hanno commesso dei crimini raccapriccianti. Ora, affidarlo ai nonni, io non metto in discussione il diritto dei nonni, ci mancherebbe altro, la capacità di assisterlo dal punto di vista morale e materiale, ma significherebbe farlo ritornare soprattutto in uno sviluppo di anni che passano, in quel circuito, anche in quell'eco mediatica che avrebbe questo caso e che ha avuto un'eco incredibile mediatica, sarebbe rimetterlo in quella famiglia che in qualche modo, insomma, non è una famiglia propriamente sana, e non parlo dei genitori, cioè i genitori, ripeto, conoscerebbe, non so se è chiaro, i nonni. È chiaro, bene, avvocato Bocciolini, nonni... siccome abbiamo ancora meno di un minuto, invece sull'altro caso cosa direbbe? Ah, sull'altro caso, in questo caso è completamente diverso, perché qui si parla di genitori, sono stati definiti genitori nonni. Quando è successo questo, scoppiò un caso, loro vengono denunciati dai vicini che in modo ingiusto, sì, perché avevano lasciato 4 minuti la bambina. Esatto, gli hanno denunciati per abbandono del minore. In Italia non c'è una legge che stabilisce l'età quindi di essere genitori. In quel caso, in questo è stato caso sono assolutamente d'accordo con il procuratore generale. Nell'altro, sicuramente un po' meno. Grazie avvocato Daniele Bocciolini, grazie. Ci dobbiamo lasciare, avete sentito dalla sigla, e poi alle 22 vi ricordo giusto i titoli principali.